e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buona giornata a tutti, sono ritornata. Eccola! Ieri mi sono fatta sentire naturalmente con la borsa, è crollato tutto e quindi mi hanno confezionato così la puntata da fare stamattina. Sei contenta? Sì, non andare più via. No, comunque. No, esatto. Stai qua, ultima, stai a casa. Esatto, ultima puntata del mese, ultima seduta di borsa del mese. In questo momento i mercati rimbalzano dopo il forte, nuovo, intenso, profondo ribasso di ieri, anche se in realtà Milano con questo più 1,7% in questo momento sul FTSE MIB non è che recuperi poi tutto quello che ha perso ieri, soprattutto non recupera certo quello che ha perso da inizio gennaio, ha fatto meno 15% e quindi ha buttato per aria tutto il bilancio positivo che aveva portato a casa invece nel 2015. Allora, ancora una volta il giovedì nero della borsa ha imposto l'attenzione sui titoli bancari che continuano ad essere oggetto di grande volatilità e visto che in banca ci mettiamo i nostri soldi sappiamo quanto il tema interessi tutti noi piccoli e grandi risparmiatori. Allora non potevamo che tornarci in apertura di questa puntata di Cuore e Denari, faremo un punto della situazione su quello che è successo ieri e cercheremo di capire e di spiegarlo a beneficio dei nostri ascoltatori che cosa vuol dire questa costituzione per ogni banca italiana della propria bad bank, che cosa è successo in Europa tra il ministro Padoan e la commissaria Vestager, che cosa hanno deciso al punto che ieri il mercato ha detto quello che è stato deciso. Non ci piace, non mi piace. Anche per la parte di Cuori, di Cuore è un venerdì speciale. Oggi festeggiamo, Debra, una bella ricorrenza perché Salute Uomo compie un anno. È un piccolo grande traguardo di cui andiamo fieri perché per primi ci siamo occupati di salute da una prospettiva squisitamente maschile, con l'obiettivo proprio di considerare l'uomo nella sua complessità, di lavorare al concetto di prevenzione come si fa da anni nei confronti di noi donne. Allora un anno, 12 mesi e saranno 12 i segnali di cui parleremo oggi e che ogni uomo dovrebbe conoscere e imparare a riconoscere per avere sotto controllo il suo stato di salute. Andiamo. Andiamo. La borsa di Milano, la peggiore d'Europa, perde il 3,5%, trascinata a fondo dal nuovo calo dei titoli bancari. Timori che l'accordo tra la UE e il Tesoro non sia risolutivo e lasci aperto il tema scottante dei 200 miliardi di sofferenze. Si guarda al risico bancario, voci su accorpamenti tra UBI e Montepaschi, matrimonio vicino tra Popolare di Milano e Banco Popolare. Pesano i titoli bancari, il petrolio risale, ma sui mercati prevalgono i timori per il rallentamento. Domani Renzi a Berlino per incontrare anche la Merkel, oggi il Consiglio dei Ministri rimpasto. E allora avete sentito il nostro consueto riassunto dei telegiornali precedenti, potremmo chiamarlo così. Ieri sono tornate copiose e forti le vendite sulle borse europee, ma come avrete seguito in particolare su Milano, che ha chiuso ieri con un ribasso di 3,5 punti, ancora una volta travolta dal ribasso pesantissimo dei titoli del comparto bancario, con gli operatori poco convinti dall'intesa sulla cosiddetta bad bank che il ministro Padoan, intesa che il ministro Padoan ha raggiunto in sede europea due giorni fa con la commissaria alla concorrenza Vestager. Ai titoli bancari ieri poi si è accompagnato anche il profondo rosso di altri titoli in altri settori come per esempio quello di Fiat, però a nulla è servito almeno all'Europa il recupero molto consistente del prezzo del petrolio mosso dalle indiscrezioni su questo accordo possibile fra Russia e Arabia per tagliare la produzione di greggio. È una circostanza che ha aiutato Wall Street ma ieri non l'Europa. Noi però guardiamo i fatti di casa nostra, proviamo a spiegare i nostri ascoltatori cosa significa per la propria banca la questione della bad bank, che poi tradotto in italiano significa banca cattiva. Esatto, e quindi quanto che sono cattive le banche lo abbiamo detto tante volte, però poi bisogna andarci perché il nostro denaro sotto il materasso non ce lo possiamo tenere. Allora anche tutta questa situazione di questi giorni cosa vuol dire per noi poveri comuni mortali. Parliamo quando parliamo di bad bank delle modalità con cui una banca dovrà e potrà d'ora in avanti gestire tutte le sue partite problematiche, crediti in sofferenza e crediti incagliati, perché poi sono anche due mondi distinti, separati, ovvero destinati appunto, quelli incagliati sono quelli destinati probabilmente a non essere più recuperati. Il piano concordato con l'Europa che contempla per le banche l'arrivo di garanzia di Stato non è esattamente a quanto pare quello che i mercati volevano e quello che i mercati si aspettavano e quindi sono tornati ieri a non fidarsi delle banche italiane e a venderle copiosamente per poi riacquistarle oggi tra l'altro, quindi anche questo sarebbe poi un tema da affrontare. 800 24 00 24, microfoni aperti come sempre a voi ascoltatori e cercheremo stamattina di spiegarvi un po' quello che accade con Nicola Borsi, Plus 24 del Sole 24 Ore, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli e ascoltatori. E poi Serena Torielli, amministratore delegato di Advise Only, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Ho detto correttamente, perché la dottoressa Torielli è un po' che non la sento, non vorrei che avesse cambiato incarico all'interno di questa vostra azienda. No, è una buona notizia, se è un po' che non ci si sente che non cambi incarico. Esatto, penso, no. Ogni tanto quando si verificano questi, chiamiamoli così, rovesci di borsa, e chiamo gli ospiti per aiutarci a spiegare un po' quello che succede, mi accusano di essere un po' quella che li mette sotto visibilità solo quando ci sono le cattive notizie, Torielli. Ovviamente non è questa la circostanza per lei, perché oggi le borse rimbalzano. Però naturalmente ci dovrà aiutare a capire anche quello che è successo ieri, perché le domande che si fanno le persone a questo punto sono anche comprensibili, no? La mia banca è sicura, mi devo fidare che non si ripeta un caso Banca Marche, Banca Etruria e compagnia bella. Sappiamo che i cali di borsa devono in primo luogo interessare gli azionisti, poi chi ha obbligazioni bancarie, in ultima istanza i correntisti, ma con questi chiari di luna in questi giorni si stanno preoccupando un po' tutti. Allora io volevo cominciare con Nicola Borzi, perché tra poco ci racconterai naturalmente l'inchiesta che hai fatto questa mattina per il Sole 24 Ore, che analizza la differenza fra Italia e Germania sul modo di coprire e gestire le passività delle banche. Però vorrei che prima di tutto ci spiegassi il perché dell'azione punitiva di questi ultimi giorni del mercato verso le banche italiane. Che cosa non convince di ciò che ha fatto Padoan con la signora Vestager? Allora, buongiorno innanzitutto. Non chiamiamola bad bank, perché non è una bad bank, è semplicemente la realizzazione di una serie di società veicolo per realizzare ulteriori cartolarizzazioni di crediti, che sono già comunque un'attività che le banche italiane realizzano. Se ognuno di noi va a guardare qualche documento magari arrivato dalla propria banca qualche tempo fa, c'è sicuramente una comunicazione in cui la banca dice: il tuo mutuo è stato cartolarizzato, però quelli sono crediti in bonis, sono crediti che noi stiamo rimborsando. Esatto, però c'è un problemino, che gli annunci vengono fatti a mercati chiusi e inizialmente le persone dicono che bello, è stato fatto l'accordo. Poi qualche tecnico, in questo caso ad esempio l'agenzia di rating Fitch, che ieri ha espresso un giudizio molto duro su questo accordo, va a vedere che cosa c'è nell'accordo e ci si accorge poi che questo accordo tanto risolutivo non è. Così che i mercati, una volta che reggono quello che scrive Fitch, decidono improvvisamente che no, quello che il giorno prima sembrava la panacea di tutti i mali, tale panacea non è. Certo che però anche il mercato non si accontenta mai, qualche volta trascura completamente le indicazioni delle agenzie di rating, e quando gli fa comodo invece quello che dicono le agenzie di rating è oro colato. Diciamo che in realtà in questo caso l'agenzia di rating funziona più come uno studio di analisi, cioè non sta dando dei rating a questa operazione, ha semplicemente fatto delle valutazioni sulla scorta di un dato pregresso, e il dato pregresso che è riportato dall'agenzia Radio Core è questo, che Fitch dice che nella storia delle cartolarizzazioni dei crediti deteriorati italiani i risultati non sempre sono stati positivi, perché in passato, e vado a leggere testualmente, i recuperi aggregati sono stati del 35-40% inferiori rispetto a quelli previsti, perché la liquidità è rimasta nei tribunali italiani in attesa di essere distribuita. Non solo, sulla questione dei crediti che dovranno essere cartolarizzati pendono altri meccanismi che la rendono problematica e quindi tra l'altro controversa. Innanzitutto il fatto che molto difficilmente questo tipo di operazioni migliorerà la qualità delle passività delle banche. Delle attività delle banche, e secondariamente c'è il problema del prezzo, cioè la definizione del prezzo di queste cartolarizzazioni non sarà facile, ci possono essere delle grosse differenze tra la valutazione di questi crediti nel bilancio delle banche e il prezzo che il mercato si aspetta, che è quello che poi dovrà essere utilizzato perché lo prevede l'accordo con l'Unione Europea, e questo può portare ulteriori minusvalenze potenziali nei bilanci delle banche, quindi potrebbero venire a galla ulteriori perdite rispetto a quelle che sono già state contabilizzate. Allora vorrei provare a far capire agli ascoltatori cosa avranno l'opportunità di fare le banche da qui in avanti. Voglio solo spiegare che Rossella Boccerelli stamattina sul Sole 24 ricorda che comunque il provvedimento probabilmente sarà un decreto su queste cartolarizzazioni, arriveranno prima della fine di marzo, per cui i primi ABS, le prime cartolarizzazioni arriveranno in primavera delle banche. Sostanzialmente le banche prendono le loro sofferenze, poi tra l'altro anche a proposito della guerra delle cifre, abbiamo 200 miliardi di crediti in sofferenza più 150 di incagliati, sono molti più di quelli che indicavano prima. Sì, e il problema sta nella velocità con cui i cosiddetti incagli poi si trasformano in sofferenza. Allora, una banca Pinco Pallino ha 1 miliardo di crediti in sofferenza, e sono appunto questi i crediti che può cedere sul mercato attraverso questi veicoli e queste cartolarizzazioni. Il punto centrale è dove mette lo Stato la sua garanzia, e cioè il suo bollino blu, allora, per fare in modo che siano, come dire, questi prodotti appetibili anche per tutta quella massa di investitori specializzati che andranno a comprare questi prodotti. Poi cercheremo di capire anche se rischiano di finire tra le, nel risparmio appunto degli italiani. Speriamo di no, state attenti. Allora la questione è molto semplice. L'accordo con l'Unione Europea prevede che la garanzia pubblica italiana possa essere concessa alle cosiddette tranche senior, cioè le migliori, quelle che avranno un rating, e non a caso quindi Fitch si è espressa, che sia almeno a livello investment grade. Per esempio, che tipo di prestito può essere? Allora qui c'è un problema, ripeto, una sofferenza è già un credito che non è stato riscosso. Se non è riscosso, difficilmente si può considerare un credito con un buon rating. Che cosa significa? Significa che nel realizzare la cartolarizzazione, che è una sorta di salsiccia finanziaria nella quale viene infilato di tutto, che poi è una salsiccia sulla quale poi vengono emesse delle obbligazioni, i cui flussi di cedole e rimborso dei capitali dipende appunto dal recupero dei crediti sottostanti. Nel realizzare questa salsiccia dovranno essere infilate non soltanto sofferenze, ma anche altre attività che invece abbiano un livello qualitativo migliore, per portare la qualità media della prima salsiccia, diciamo, quella della fila che ha il rating migliore, a un livello sufficiente per ottenere la garanzia pubblica statale. Io ho parlato con delle società di recupero crediti, perché domani su Plus 24 uscirà una mia analisi di questa situazione, le quali mi dicono: sì, all'interno di queste salsicce noi alla fine che cosa vedremo? Vedremo mettere dei crediti che sono garantiti soprattutto da garanzie reali, cioè da immobili. Ci sono in realtà due tipi di immobili che vanno a garanzia di sofferenze quando queste sofferenze sono di importo rilevante, diciamo tra i 50 e i 100.000 euro. Sono immobili di piccole e medie imprese. Per la maggior parte, come sanno purtroppo gli imprenditori, il mercato dei capannoni ormai non vale quasi più nulla. Quindi alla fine che cosa ci sarà a garanzia di queste sofferenze da andare poi a escutere, cioè a vendere? Ci saranno abitazioni. Attenzione però, perché infilare in un decreto che prevede cartolarizzazioni che dovranno avere una vita tra i 3 e i 5 anni, diciamo, per avere una garanzia non troppo pesante in termini di costo degli immobili, significa che noi avremo dai 3 ai 5 anni per poi cercare di vendere questi immobili sul mercato, e siccome prima li vendiamo maggiore è il risultato che otteniamo, avremo molta fretta di vendere questi immobili, rischiamo di andare a colpire ulteriormente il mercato immobiliare che è già in difficoltà. Insomma, è un meccanismo complesso, ecco perché il mercato non si fida e vuole vederci chiaro. Allora, Serena Torielli, Advice Only, la vostra è una piattaforma che costruisce portafogli di investimento per piccoli risparmiatori, e in realtà il vostro obiettivo è anche quello di fare educazione finanziaria, quindi di intraprendere dei percorsi di investimento con chi vi segue, naturalmente spiegando loro anche passo passo quello che fanno, dove investono. L'ho raccontata in maniera abbastanza semplificata la vostra attività, non solo questo, naturalmente, Torielli. No, ma certo, in modo molto chiaro. Diciamo, tutte queste misure, non ultima appunto il tanto citato bail-in, vanno nella direzione, anche quello che sta succedendo, di dover rendere i risparmiatori italiani, ma non solo italiani, più a questo punto più consapevoli di quello che fanno. Ecco. La interrompo solamente per non bruciarle tutto il discorso, perché devo andare al traffico. La faccio ricominciare fra 30 secondi, così poi potrà andare a ruota libera a spiegare bene come la pensa su questo delicatissimo momento per i mercati finanziari. A tra poco. Cuore e denari. Cartolarizzazione. Difficile da pronunciare, figuriamoci da spiegare. Ora, la cartolarizzazione funziona per le banche per togliersi di mezzo il rischio del mutuo subprime di Jack, per la stessa ragione per cui voi, quando andate al ristorante, non dovete ordinare le polpette! Mai! Perché come le fanno le polpette? No, perché capita a volte, per carità, non tutti e non sempre, ma alcuni ristoranti, il lunedì, è avanzata la cartilagine del pollo? Vabbè, trita tutto e metti dentro. Un orecchio del maiale? Vabbè, trita tutto e infila dentro. Un rognone? Trita anche quello, metti dentro. Poi impasti per benino, fai le polpettine, le infarini, le friggi, fuori, belle polpette dorate. Dentro, gli scarti. Ora le banche hanno fatto così anche col mutuo subprime. Hanno preso tutti i mutui subprime di Jack, li hanno trasformati in titoli finanziari e li hanno spezzettati. Spezzettati per benino. Poi hanno preso qualche titolo finanziario buono, hanno messo dentro anche quello e hanno spezzettato pure lui. Poi hanno mescolato così tante cose bene che non si capiva più cosa ci fosse dentro. Hanno fatto delle polpettine finanziarie, infarinate, fritte, fuori belle polpette finanziarie dorate. Dentro il veleno per topi del mutuo subprime di Jack. Abbiamo voluto riascoltarlo tutto, questo brano tratto da Pop Economics. Quanti di voi hanno visto questo spettacolo che è stato itinerante in tutta Italia? Questo era il modo in cui Jack, appunto il protagonista di questo spettacolo, spiegava i prodotti derivati, le cartolarizzazioni di mercato, quelle che hanno in particolar modo nel 2008 causato la gravissima crisi finanziaria dalla quale ancora tentiamo di uscire, ancora ne paghiamo le conseguenze. Allora, stavamo conversando con Serena Torielli, amministratore delegato di Advise Only. Riprendendo la chiacchierata con lei, dottoressa Torielli, ho notato, guardando sul vostro sito, che fra i vostri approfondimenti più cliccati, più gettonati, più letti in questi ultimi giorni ci sono proprio quelli che stanno riguardando il rovescio bancario che si sta verificando in borsa sui titoli bancari. Allora, per esempio, il più letto in assoluto è Monte dei Paschi, cosa fare se sei correntista, risparmiatore, azionista ed obbligazionista, ma anche le banche oggi, voi dite, non sono un buon investimento, ecco perché. Allora, come state spiegando ai risparmiatori quello che sta accadendo? Diciamo, come hai detto molto bene, noi appunto vogliamo portare l'informazione, come già esistente su internet, su giornali, su una radio come la vostra, veramente a misura di risparmiatore, dare un taglio molto pratico, perché molto spesso le persone possono capire anche la teoria, cosa succede, leggono i giornali, sentono i telegiornali, ma è difficile poi andare a verificare le conseguenze pratiche. Appunto, con Advise Only, su questo pezzo di Monte Paschi che è stato straordinariamente condiviso proprio perché aveva un taglio pratico, diceva, guardi, vi diamo una mano, lo mettiamo anche su Facebook, anche sui nostri social. Grazie mille, è stato molto condiviso. Abbiamo poi fatto una video chat, diciamo, abbiamo, oltre a rispondere a tutti i commenti online, e abbiamo capito che appunto quello che poi Advise Only sa fare, ci piace fare, che le persone, alcune persone erano veramente in difficoltà, ci facevano domande come: ma io non ho il conto a Montepaschi ma ho il conto a Widiba, cosa succede, devo chiudere? Esatto, cioè, che veramente l'ambito online, diciamo, di Monte dei Paschi, che peraltro è nato da poco, io guardo, fanno anche una grandissima campagna pubblicitaria in questo momento. Quindi appunto gli strumenti finanziari sono sempre di più, i mercati finanziari sono sempre più difficili e per i risparmiatori è sempre più difficile orientarsi. Io cito sempre l'esempio: mia madre viveva in un'epoca in cui i bot rendevano il 15%, c'era uno Stato che le pagava la pensione e chi se ne frega dell'educazione finanziaria. Oggi devo dire anche misure come quella del bail-in spostano sempre di più l'accento sull'importanza dell'informarsi, che non vuol dire diventare esperti di finanza come voi, come le persone che lavorano nel settore, ma vuol dire capire dei concetti basi che sono anche molto semplici per potersi difendere. Diciamo che le reazioni dei mercati di questi giorni sono sicuramente state in buona parte caratterizzate dalla paura. Noi pensiamo appunto che le banche non siano un buon investimento per tutta una serie di ragioni, perché le prospettive di redditività che vediamo nel mercato per le banche italiane non sono assolutamente brillanti, ma allo stesso modo pensiamo che le reazioni di questi giorni siano state esagerate, portate dalla paura. Alcune delle banche coinvolte non hanno particolari problemi non performing loan, mi viene in mente Mediobanca che ieri ha perso il 5%, cioè, ci sono delle, colpiscono, poi vanno a tappeto, la gente ha paura e reagisce nel panico, ecco. Quindi informarsi, diciamo, è il primo passo per difendersi. Certo, un altro passo, so che quello che voi suggerite frequentemente è quello di come ormai ho riempito anche la testa di Nicoletta su questo concetto, naturalmente quello di diversificare e non investire mai in una singola azione, anche se naturalmente poi i prezzi raggiunti dalle banche in questi giorni invitano molti che vogliono fare magari qualche piccola speculazione anche ad acquistare su questi prezzi, perché io immagino che per qualcuno che fa analisi attenta ci siano delle sottovalutazioni evidenti su qualche titolo del settore. Hai detto Torielli. Molto bene, cioè Hai detto la parola giusta, speculazione. Allora, investire e risparmi è una cosa diversa. Uno, questo non vuol dire, sicuramente ci sono delle straordinarie occasioni, l'investimento in una singola azione può andare molto bene, ma anche è molto rischioso, può andare molto male, diciamo è superiore dal punto di vista forse del rischio probabilistico comprare un'azione bassa rispetto a usare un gratta e vinci, è comunque un qualcosa. Un conto è il poverino che ha le azioni, deve capire se venderle adesso, le ha comprate incautamente, magari la prossima volta ci sta attendo, e capire se deve venderlo o no. Comprarla oggi va benissimo, uno deve essere pronto a affrontare questa volatilità. Se un gestore professionista attraverso un fondo o attraverso un ETF ha già realizzato all'interno di un prodotto una diversificazione, cioè già un lavoro di un professionista, e si accosta al mercato perché pensa ci sia un'opportunità, lo fa con uno strumento che per definizione è più sicuro e meno volatile. Quindi non è che lo sconsigliamo in assoluto, diciamo che è un investimento per esperti, è un investimento per persone che sono disposte a affrontare un certo rischio. Allora, volevo, prima di sentire Domenico da Roma, che è pronto con la prima domanda di oggi, fare un punto della situazione invece con Nicola Borsi sull'inchiesta che lui ha realizzato questa mattina per il quotidiano. Garanzia di Stato, Berlino batte Roma 6-1, proprio nella giornata in cui Matteo Renzi incontra Angela Merkel. Allora, il tuo articolo parte anche da questo presupposto, Nicola, che è quello che mi interessa di più che di questa competizione fra Roma e Berlino. Il tema è che la garanzia di Stato sui prodotti finanziari in realtà era un qualcosa che veniva già fatto e adottato. Dove? Noi, per esempio, è possibile che abbiamo in portafoglio uno strumento su cui abbiamo investito e che abbia la pagella dello Stato e non lo sappiamo? Beh, non esattamente. Ecco. La garanzia di Stato sui prodotti finanziari vale per le situazioni delle imprese, che siano imprese private o pubbliche, che siano anche banche. In Italia, ad esempio, c'erano i Tramonti e i Monti Bond, che sono strumenti che sono stati erogati nella prima parte della crisi finanziaria, in realtà in maniera molto ridotta perché erano molto costosi. Che era in quel periodo considerata anche un'ottima notizia per quello che ci riguardava, perché veniva molto enfatizzato il fatto che non avessimo dovuto salvare le banche. Esatto, ecco. Furono impiegati solo da un paio di mentre banche. Mentre la Germania ricapitalizzava, l'Olanda ricapitalizzava, infatti, la Spagna salvava tutte le sue banche. Il problema è proprio questo, che in realtà l'Italia, per tutta una serie di motivi, innanzitutto per una narrazione, parola che va di moda oggi, cioè perché ci siamo continuati a raccontare per 7 anni che le banche italiane erano solide e che non avevano problemi. Abbiamo un minuto, esatto, ti facevo un segno. Esatto, per una narrazione le banche hanno continuato a dire che i problemi non c'erano. In realtà il tempo è passato, la possibilità di utilizzare determinate norme europee che una volta erano molto più lasche di oggi è finita, e oggi noi dobbiamo andare a Bruxelles a negoziare ogni singolo punto dei passaggi che riguardano la messa in sicurezza del nostro sistema bancario, come appunto è successo nei giorni scorsi nella trattativa sulla cosiddetta bad bank, che bad bank non è, tra Padoan e Vestager. Allora, e Berlino su quante banche ha messo la Berlino propria garanzia? Berlino ha messo la garanzia diretta dello Stato federale tedesco sul 16,4% del PIL, che è una cifra che supera i 400 miliardi di euro, mentre a tutt'oggi noi abbiamo una garanzia pubblica su meno del 2,8 del PIL, cioè su una quarantina dei miliardi. Ecco perché Berlino batte Roma 6-1. Allora, noi adesso ci fermiamo perché abbiamo aggiornato radio. Chiedo ancora qualche minuto di pazienza a Domenico da Roma e poi ritorniamo naturalmente dopo l'informazione dei colleghi. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Di questi tempi il mercato non è di buon umore, la banca centrale americana che rialza i tassi, la Cina che rallenta, gli emergenti allo sbando, la volatilità ingestibile di materie prime e petrolio, l'inflazione che in Europa cala invece di salire, i rischi oscuri della geopolitica, un'overdose di incertezza. Voglia di mandare giù rospi, il mercato ne ha veramente poca. E invece ecco che arriva l'Italia con un condensato indigesto di problematiche bancarie, tutte da risolversi in fretta e furia e con l'aiuto proprio dei mercati, nonostante nonostante la tempistica sia infelice, mentre si avvia il cambiamento epocale innescato il 1 gennaio con il nuovo meccanismo di risoluzione bancaria, il bail-in. Troppa carne al fuoco ed è quella dei rospi. Oltretutto, lo scrive Isabella Bufacchi stamattina sul Sole 24 Ore, noi oggi abbiamo provato a rianalizzare di nuovo il terremoto sui titoli bancari che si è verificato ieri, oggi recuperano tutti. Il tema è le sofferenze bancarie delle banche appunto italiane, come verranno gestite dopo l'accordo preso in sede europea fra il ministro Padoan e la commissaria europea all'antitrust Vestager. Questi crediti in sofferenza verranno cartolarizzati, i più belli, i più bravi avranno anche una garanzia di Stato. L'ho proprio banalizzata al massimo, Nicola Borsi, ma il punto è che questa garanzia di Stato come funzionerà e la qualità anche di questi crediti che finiranno sul mercato. Il mercato non capisce come verranno appunto prezzati questi prodotti e tutto quello che c'è dietro anche a queste cartolarizzazioni, che cosa le garantisce, capannoni industriali se si tratta di prestiti in sofferenza delle imprese, i mutui ipotecari, quindi le abitazioni delle famiglie che non riescono a pagare il mutuo. In sostanza il problema è questo. In tutto ciò le banche che scendono in borsa provocano l'inevitabile spavento anche nei confronti delle persone che poi in queste stesse banche ci mettono i loro soldi come correntisti, come obbligazionisti e come azionisti. 800 24 00 24, il numero verde per velocizzare le operazioni di ascolto dei nostri appunto ascoltatori prima poi di fare il nostro cambio tema. Velocemente vado a Domenico da Roma, Vilma da Trento e poi commenteremo queste due situazioni con i nostri ospiti, Nicola Borsi del Sole 24 Ore, Serena Torielli, amministratore delegato di Advise Only. Advise scritto con la S, poi magari ve lo spieghiamo correttamente, mettiamo tutto su Facebook. Domenico, benvenuto. Buongiorno, buongiorno signora. Velocemente, grazie. Sì, io ho ascoltato con molto interesse tutti questi personaggi che voi intervistate con un linguaggio tecnico molto coinvolgente, molto bello, molto interessante. Ecco perché noi ci siamo delle volte, ci sentiamo attratti da queste persone per cercare di affidarci dando loro la gestione dei nostri capitali. Purtroppo, avendo una certa età, noi cerchiamo al massimo di puntare un po' sul sicuro, perché quello che uno si gioca poi non lo recupera più alla nostra età. E allora ci affidiamo a queste persone sperando. Certo, quindi l'obiettivo è conservare il capitale. Ecco, riponendo una certa fiducia possano fare un po' i nostri interessi. Ma ci accorgiamo purtroppo che il percorso è molto molto difficile e disseminato di grandi tranelli. Quindi Domenico, il punto qual è? Se può andare velocemente alla domanda? Questo, io ho fatto degli investimenti dall'ottobre scorso fino ad oggi. L'andamento è stato decisamente negativo. Eh sì, lo sa cosa è successo sui mercati in questi sei mesi. Sono uscito in tempo, nonostante l'insistenza da parte della banca di rimanere, però uscendo prima mi sono salvato forse meglio. Ecco, adesso questa cifra che ho recuperato, che non è elevata, ma è comunque una buona cifra. Cosa farne, Domenico? Velocemente. Ecco, allora, cosa guardi, cosa fare in questo momento? Diciamo che i 5 minuti che abbiamo a disposizione facciamo fatica a farle un'analisi, perché qua dovremmo chiederle, Serena Torielli, quali sono i suoi obiettivi di vita, qual è l'obiettivo di questo suo investimento. Perché già il fatto che lui abbia detto ho investito ad ottobre e lo ha cominciato a controllare ovviamente in maniera costante, come è giusto che faccia, poi è uscito, ma insomma i mercati erano già sui massimi. Se ha fatto tutto un investimento sul mercato azionario, era anche abbastanza inevitabile che insomma una discesa si dovesse attendere. Che cosa ci suggerisce il caso di Domenico? Suggerisce che Advise Only propone delle soluzioni di investimento molto trasparenti, spiegate al costo di 24 euro l'anno, che è molto popolare. Suggerisco a Domenico innanzitutto di non comprare mai, di seguire appunto un approccio che proponiamo noi, di non comprare mai quello che non capisce. Gli italiani hanno il difetto di, ha citato appunto, mi hanno consigliato in banca, in banca bisogna fare tante domande e non farsi vendere i prodotti che vuol vendere la banca. Cioè, noi suggeriamo ai risparmiatori, anche che privilegino come lui giustamente la tranquillità, di fare quel minimo di controllo, di informarsi per capire che cosa è davvero sicuro, non quello. Però lì mi viene anche il dubbio, Torielli, poi qua non ce la facciamo ad analizzare anche questo aspetto di finanza comportamentale, che se lui voleva la protezione del capitale e ha perso molto, forse l'obiettivo non era stato totalmente condiviso con il suo consulente. Certo, è stato sicuramente mal consigliato, o non c'è stata una buona comunicazione. L'equivoco per tutti i risparmiatori italiani, e lo dico ad altissima voce soprattutto sulle obbligazioni, perché ne succederanno ancora di queste crisi e casini, non bisogna chiedersi quanto voglio guadagnare, ma appunto, come noi evidenziamo, bisogna chiedersi quanto sono disposto a perdere, e deve cambiare il modo di proporre gli investimenti, e solo da lì poi si deriva, a seconda di quanto sono disposto a perdere, a rischio connesso al rendimento, quanto posso guadagnare. Deve proprio cambiare il rapporto causa-effetto di come viene proposta la consulenza finanziaria. Ottimo. Vilma da Trento, buongiorno. Buongiorno signora. Tanti complimenti prima di tutto e grazie per avermi chiamata. Grazie. Senta, io ho 30.000 euro di subordinate alla Montepaschi che scadrebbero in 2018. Sì. Premetto che sono una risparmiatrice poco esperta, e questo l'avevo fatto notare alla mia interlocutrice, e purtroppo quella probabilmente ha cambiato il mio MiFID. Io mi dirà, ho firmato logicamente a occhi chiusi perché ho fatto molta fiducia alla signora che è in banca. Dunque adesso io sono molto perplessa con queste 30.000, lei come saprà sono diventate 20. Esatto, dunque i prezzi sono scesi molto di questa obbligazione, l'ha monitorata molto attentamente Nicola Borzi nelle scorse settimane. Sì, le abbiamo monitorate, anche qui non siamo in condizione di dare una risposta, innanzitutto perché non è il nostro compito, noi non siamo consulenti finanziari. Facciamo informazione ed educazione finanziaria, ma non consulenza. Che margini ha di risalita il prezzo di questa obbligazione di recupero? In questo momento fare delle ipotesi è assolutamente teorico, anche perché il rimbalzo di oggi, ad esempio, in borsa dei titoli MPS è legato all'ipotesi di fusione con UBI, quale però è ancora tutta da discutere, è ancora un'ipotesi tutta sul tappeto, visto che anche oggi Fabrizio Viola ha detto sì. L'amministratore delegato di Monte dei Paschi. Ci sono delle opportunità in un'operazione del genere, ma non abbiamo nemmeno un dossier su questo, quindi non siamo in condizione di dare un'idea. Possiamo dire quello che è successo, cioè dal 22 novembre, quando è stato fatto il decreto salvabanche che ha azzerato 750 milioni subordinati di titoli subordinati obbligazionari di Banca delle Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti, si è creato il caos sul mercato. Esatto, però quello che possiamo dire alla nostra ascoltatrice è che quantomeno questa obbligazione di Monte dei Paschi è quotata, quindi anche se in perdita lei potrebbe venderla, potrebbe essere un'obbligazione un po' più liquida rispetto a quelle delle quattro banche craccate. Allora il fatto che sia quotata non ci dice se è liquida, anche perché quello che abbiamo notato, e l'ho notato io, è che i titoli di alcune banche, quindi Carige, MPS, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, anche se quotati, hanno preso delle scopole molto pesanti, anche meno 30%. Il fatto che siano quotati non significa in realtà che si riescano a scambiare, perché ci possono essere delle differenze tali di prezzo tra quello che è richiesto per vendere e quello che è domandato per comprare, che i due flussi non si incontrano e materialmente l'obbligazione non riesce a essere scambiata. Però insomma, io Torielli, certo, lei che ne pensa? Meglio quotata che non quotata. Io dico alla signora, innanzitutto con la storia che racconta lei ne sentiamo tante, fa venire, fa capponare la pelle questa, esatto, della cambiare, no, perché anche il sospetto, esatto, quindi. Ecco, e poi quando, allora, un conto se una banca ti vende un'obbligazione Parmalat di cui non conosce il rischio, se una banca ti vende un'azione propria, un subordinato proprio, le proprie condizioni, i propri problemi li conosce. Mi scusi dottoressa, però anche se una banca vende un'obbligazione di un'altra società, specialmente se è in regime di consulenza, dovrebbe conoscere esattamente il prodotto che vende a risparmiatore. Però lei dice certo. Però nel caso proprio vedo anche un conflitto di interessi, cioè il dolo proprio. esatto, vengono classati, cioè gli aumenti di capitale invenduti vengono propinati ai risparmiatori. Andiamo verso la conclusione, cosa direbbe a Vilma Torielli? Alla signora di tenere l'obbligazione, aspettare, guardare cosa succede, perché tendenzialmente questa obbligazione subordinata verrebbe impattata nel caso di un evento estremo che io non mi aspetto, francamente il bail-in del Monte dei Paschi sarebbe un evento catastrofico per il paese, per il mercato esatto, italiano, quindi alla signora con un non dovrei farlo, ma con un po' di buon cuore le dico: si continua a informare e abbia pazienza, e soprattutto la prossima volta non si faccia più vendere queste cose. Sì, ricordando che comunque l'obbligazione andrà rimborsata a 100, per cui in ogni caso, anche se adesso sta a 60, anzi, è per questo che abbiamo scritto su Plus, ed è successo poi materialmente, e anche sul Sole 24 Ore l'abbiamo spiegato, che molti operatori istituzionali, non risparmiatori, hanno comprato in massa i subordinati di alcuni emittenti perché si sono accorti che c'è del valore da estrarre nel momento in cui questi titoli sono stati ipervenduti e quindi svalutati eccessivamente. Grazie, grazie a Nicola Borzi e Serena Torielli per essere stati con noi, sperando di non aver generato ulteriore confusione fra i nostri ascoltatori che già vivono un momento molto delicato. Del resto del risico bancario parleremo un'altra volta, perché tanto qua è in pieno fermento il settore in Italia. Pronte all'aggregazione ci sono la Popolare di Milano e il Banco Popolare. Teniamo sotto osservazione questa operazione. La firma è attesa entro metà febbraio. Se ne parlerà probabilmente anche nel weekend al Forex di Torino. Grazie a tutti. Grazie presto. A voi, buona giornata. E allora, Deborah, a questo punto cambiamo tema. Pronti con la torta e la prima candelina? Solo va un vecchio fra. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo. L'abbiamo anticipato. Salute Uomo festeggia il primo anno. E allora per... auguri, carino! Grazie a Carmelo Lauricella. Mia, stupito. Nessuno ha portato una torta vera, però, Non vero? No. Allora, potete farcela recapitare qua in via Monterosa 19, o invece per auguri, suggerimenti, richieste, critiche, delucidazioni, proposte 800 24 00 24. Benvenuto al nostro uomo, il professor Andrea Saloni, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, consulente scientifico del nostro progetto, nonché ideatore insieme a me e a Deborah. Andrea, buongiorno e bentornato. Buongiorno. E buon primo anno a buon tutti. Primo anno. Allora, per festeggiare il primo compleanno di Salute Uomo abbiamo organizzato una puntata speciale, una sorta di riepilogo dei temi che abbiamo trattato in questo anno, che opportunamente rielaborati danno origine a un prezioso vademecum della salute maschile. Un anno, 12 mesi, saranno 12 segnali di cui parleremo oggi, segnali che ogni uomo dovrebbe conoscere e imparare a riconoscere per avere sotto controllo il suo stato di salute. Dal bisogno di alzarsi nel cuore della notte per andare in bagno a fare pipì, al sangue nelle urine, al calo del desiderio sessuale, senza trascurare segnali magari meno sospetti, ad esempio il dolore all'alluce, tanto per dirne uno. Ad esempio, ma poi ci sono moltissimi altri segni legati ai genitali esterni. Noi abbiamo sdoganati a iosa nell'arco di queste 12 puntate, che credo abbiano portato una ventata di novità anche nel modo di gestire la comunicazione rispetto alla salute maschile, per cui ancora una volta buon primo anno. Anche voi da casa dovete fare naturalmente la vostra parte, suggeriteci la vostra ricetta di benessere. L'invito naturalmente è aperto anche alle nostre ascoltatrici, perché spesso sono le donne fondamentali ad occuparsi proprio del benessere e della salute maschile, o a stimolare il proprio compagno, figlio, marito, fratello, collega che sia, ad occuparsene. Quindi che fate? Che suggerite di fare per investire in salute nel breve e nel lungo periodo? Allora, tra tutti i consigli che possono spaziare naturalmente dalla cura della pelle, che so, all'alimentazione, al pensiero positivo, alla gestione dell'emozione, ai consigli per scolpire i muscoli, per avere migliore performance, ne selezioneremo 12 che riporteremo naturalmente sul nostro sito, ma quelle che arriveranno in diretta, previa approvazione naturalmente del prof, faremo arrivare un libro di Cuore e Denari. Quindi trucchi, consigli, leggende metropolitane per festeggiare Salute Uomo, avanti. Allora Andrea, dopo il decalogo del buon pisello, perché abbiamo fatto anche quello. Esatto, l'ultima puntata di dicembre, ve lo ricordate tutti, c'era Vincenzo Lemme, è stata una bella puntata, ci siamo divertiti, è stata un po' di poesia, un po' di sogno e insieme un po' di scienza, e alla fine abbiamo deciso di stilare il decalogo del buon pisello. Del tronchetto della felicità. Esatto, non ci fermiamo e quindi... Andiamo avanti. Diciamo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che il decalogo del buon pisello si trova sulla pagina di Salute Uomo, esatto. Quindi andate su Cuore Denari. E oggi ci misuriamo con un dodecalogo, esatto. Perché non 10 ma 12 consigli. Dove arriveremo, Andrea? Beh, qua. Già abbiamo coniato una nuova parola, quindi neologismi a iosa, qua. E poi comunicheremo di salute mettendo i puntini sulle i per i prossimi 12 mesi. L'abbiamo fatto per 12 mesi, adesso lo faremo per i prossimi 12 mesi, magari parlando in parte di cose di cui abbiamo già accennato, ampliandole piuttosto che andandone a discorrere in modo un pochino più esteso, i 12 consigli che vorremmo provare a dare sono consigli pratici da un lato e estremamente, diciamo, utili nell'arco della quotidianità delle persone, al maschile ovviamente. Allora, il professor Andrea Salogna ci darà questi 12 segnali, ma l'invito è: chiamateci, questa è proprio una puntata da Il Medico Risponde, per qualunque vostro dubbio, magari temi che non riuscite ad affrontare con il vostro medico, medico di famiglia. Di base, certo. Ecco, 800 24 00 24, noi abbiamo organizzato naturalmente una scaletta, 12 consigli che spazieranno, possiamo proprio dire, dalla testa ai piedi. Esatto. Voi prenotate, faremo delle fermate intermedie, chiedeteci i vostri consigli, raccontateci soprattutto quali sono i trucchi, i vostri, no, modi per continuare a stare bene e invece che cosa vi preoccupa. Anche i segreti della nonna van bene. Va bene. C'è un principio di magia fra gli ostacoli del cuore. Abbiamo parlato tante volte di salute sessuale a Salute Uomo e lo facciamo anche oggi per ricordare che la disfunzione erettile è un disturbo che non solo può compromettere il benessere della coppia, ma anche quello del cuore. Lo dimostrano i dati, lo confermano le ricerche e in tempi non sospetti, siamo nel lontano 2003, quindi 13 anni fa, proprio uno studio del San Raffaele dimostrò che, attenzione, circa il 70% dei pazienti maschi giunti in pronto soccorso per un infarto cardiaco soffrivano di disfunzione erettile e che nella maggior parte di questi casi i problemi di difficoltà dell'erezione erano insorti mediamente 3 anni prima dei sintomi cardiaci. Mi sembra, noi abbiamo deciso di mettere proprio come primo punto questo perché ci sembra un punto estremamente importante. E lo è. Ammesso che un uomo decida di chiudere con la sua attività sessuale, ecco, non può chiudere con invece l'attività del cuore, questo è indubbio, quindi attenzione, non dite intanto io non ho il compagno, non ho la compagna, il sesso per me non esiste più, non mi interessa, eccetera, perché non è solamente un problema di erezione, è una spia importantissima, Andrea, aiutami tu, dello stato per la salute, di salute del cuore. Assolutamente. Allora facciamo una convocazione ai nostri ascoltatori. Convochiamo soprattutto le persone più giovani, le persone che abbiano una coesistente pressione alta piuttosto che problemi diabetici, perché in queste tre categorie, ripeto, ipertesi, diabetici e giovani, in cui compaia un problema di disfunzione erettile, esiste sempre la possibilità di un eventuale successivo evento cardiaco, che vuol dire in altri termini le arterie che abbiamo a livello del pisello, perché di quello che stiamo parlando, sono esattamente strutturalmente identiche a quelle che abbiamo a livello cardiaco. E questo significa che le coronarie soffriranno probabilmente dopo rispetto alle arterie del pene, che sono di diametro minore, ma da un punto di vista strutturale sono identiche, e quindi prevenire un danno a livello cardiaco si può, soprattutto in quegli uomini che appunto lamentino una disfunzione erettile, siano diabetici o siano ipertesi, o siano particolarmente giovani, con o senza queste due comorbidità. Qual è il confine tra una situazione fisiologica normale e una patologica? Diamo una definizione di disfunzione erettile. Quando si può pensare a un problema vero? Esiste una buona definizione di ormai più o meno 20 anni or sono, quando mi è sconosciuto il termine di impotenza, che sembrava un po' dispregiativo, si coniò la definizione di disfunzione erettile come di quella incapacità o difficoltà di ottenere o mantenere un'erezione capace di arrivare a promuovere un'attività sessuale soddisfacente, e questa dal punto di vista cronologico doveva durare circa 6 mesi. Questa è una buona definizione. È ovvio che esistono i momenti in cui ci siano le cosiddette defiance, per cui uomini che arrivano in ambulatorio dicendo io non sono riuscito ad avere un rapporto con la mia compagna, mi è successo una volta, mi ha molto spaventato, non possiamo etichettarli come affetti da disfunzione erettile. Tutt'al più potranno avere un disagio legato all'erezione, che si potrà anche ripetere nel momento in cui ci fosse quella che molti chiamano ansia prestazionale, per cui soprattutto nelle persone giovani, alle prime armi, ma non solo, cambiamenti di partner e quant'altro, sono quelle condizioni specifiche in cui il disagio legato all'erezione fa preoccupare, ma non si può parlare di disfunzione erettile, e qualora anche se ne potesse parlare, esiste sempre un modo per trattarla, ben diagnosticarla e trattarla. come questo l'abbiamo messo al primo punto e non a caso del nostro dodecalogo. Al secondo punto, Andrea, che cosa vogliamo mettere prima di andare ai mercati e poi sentiamo anche Giuliano da Napoli? Possiamo mettere qualcosa relativo alle dimensioni, che sono a tutto tondo dimensioni importanti. Noi nell'arco delle nostre 12 puntate abbiamo parlato di almeno 3 dimensioni diverse. Abbiamo parlato di dimensioni dei muscoli, abbiamo parlato di dimensioni del pene, abbiamo parlato di dimensioni della vita. Parto da quest'ultimo, la circonferenza vita, che ha di per sé una certa quale importanza, i muscoli, che più o meno scolpiti rappresentano uno stato di salute, e ovviamente per stato di salute abbiamo discusso a lungo di quanto importante fosse non far abuso di sostanze ed avere un'alimentazione corretta, un'attività fisica regolare, che fosse peraltro caratterizzata dal combinarsi un buon sonno. E poi abbiamo parlato di dimensioni del pene. E in quel caso ci siamo portati a dire, fondamentalmente, è bene non considerare mai una condizione di patologia qualcosa che non sia realmente oggettivabile. E abbiamo dato anche qui un numerino: si considera un pene micro, cioè piccolo, meritevole di un approccio chirurgico eventualmente, quando sotto i 7,5 cm in erezione. Tutto il resto è considerabile normale, per cui forza e coraggio. 800 24 00 24. Allora, dalle dimensioni del tronchetto della felicità ai mercati. Alle dimensioni dei rialzi o dei ribassi, quindi anche noi parliamo ovviamente di dimensioni. Certo, ecco, vediamo un po' oggi che succede. Cuore e denari. Allora, noi stiamo festeggiando Salute Uomo perché oggi compie un anno. 800 24 00 24 se volete fare gli auguri a questo progetto, che è stato il primo ad occuparsi di salute al maschile. Banta numerose imitazioni. Sì. E quindi questo che vuol dire che abbiamo... Che non vengono tanto bene, però. Che non vengono, però questo... Ma qualora anche venissero bene, ma il primo è sempre il primo. Il primo è il nostro primo, e quindi se avete consigli, critiche, suggerimenti, vi invitiamo a mettervi in contatto con noi. E oggi una puntata speciale in cui cerchiamo, se il tempo lo permetterà, di evidenziare quei 12 segnali che ciascuno di voi dovrebbe tenere sotto controllo, imparare a riconoscere, non solamente sapere che esistono, ma ritrovarli anche, no, su di sé. Certo. E che possono in qualche modo rappresentare una buona protezione per la salute. Io le ho paragonate un po' alle spie sul lunotto delle automobili. E lo sono. Ciascuno di noi sa che cosa corrisponde quella spia. Ecco, sappiamo che è lì e che quando si accende bisogna fare qualcosa. Nel caso, molto probabile che con i vostri interventi, le spiegazioni di Andrea, i consigli, aspettiamo naturalmente anche i vostri consigli per stare bene, non riuscissimo a completare questi 12 segnali, naturalmente li potete trovare sulla pagina di Cuore Denari, un bel elenco ragionato che insomma vi aiuterà sicuramente a investire in salute. L'anno. Allora, abbiamo parlato di disfunzione erettile, attenzione, una spia per il cuore, abbiamo parlato di dimensioni, sì, dalla sindrome dello spogliatoio. Esatto, perché è un po' il chiodo fisso di ogni uomo. O se non lo fosse, spesso lo diventa. Le dimensioni del girovita. Abbiamo dato il numerino magico di 102 centimetri, che per la popolazione bianca caucasica è un po' cartina al tornasole dello stato di salute metabolica in linea di massima. Ci sono altre misure che dovete tenere sotto controllo, ad esempio quelle dei pettorali, che fanno tanto macho se sono scolpite, ma attenzione al tono: se sono pettorali, ok, se è una sorta di... qualcosa che assomiglia a un seno femminile, attenzione, esatto, non è un problema di estetica. Esatto. Andrea. In realtà ce l'hanno ben spiegato durante l'anno. Ci sono due condizioni importanti, quelle che noi chiamiamo ginecomastia vera, che è un po' una crescita della mammella maschile che assomiglia alla mammella femminile, è ad abbastanza parafisiologica, cioè si avvicina molto a ciò che l'evoluzione legata all'età ci porta ad essere dopo i 50 anni, spesso legato ad un'alterazione dei livelli o un disequilibrio dei livelli ormonali. Ma prima dei 50 anni il palpare, e da qui l'importanza della palpazione, segno clinico importante, spia di rilevamento importante, il palpare la mammella, cioè la zona dietro al capezzolo, è importante importante, esattamente come quello che succede nella donna. Palpare una mammella che sembri una mammella, cioè al di sotto di quella sentire qualcosa di più duro, magari anche una nodulazione, deve essere considerato un elemento importante. Perché? Perché ci sono dei casi in cui si associa a patologie di tipo endocrinologico, ad esempio una tiroide che meno ben funziona, si associa talvolta a delle alterazioni del tono del testosterone nel sangue, ma ci sono dei casi in cui gli uomini assumono dei farmaci tipicamente per il bruciore di stomaco, in cui ci può essere un accrescimento dei valori ghiandolari della mammella dietro il capezzolo che è totalmente parafisiologico, non ha nulla di preoccupante, ma spesso dà un'alterazione cosmetica, e ci sono casi in cui questo porti alla necessità ad esempio di asportare la mammella dietro del capezzolo medesimo. No. Ci sono anche i tumori, ricordiamocene, molto rari per fortuna, ma ci sono, quindi nodulazioni non devono mai essermi sconosciute, palpiamoci le mammelle. Allora, tu Andrea hai parlato di autopalpazione, di una pratica che hai raccomandata e insegnata agli ascoltatori di Salute Uomo e che un genitore deve insegnare al proprio figlio, infatti l'abbiamo inserita nell'elenco dei nostri consigli per la salute. Esatto. Ecco, e ci ne sono parleremo? Ne parleremo. No, dai. Ci sono due elementi da palpare, tra virgolette, sì, oltre alla mammella. Il testicolo è fondamentale ed abbiamo insegnato, e l'hanno insegnato anche tutti gli urologi sul loro sito della Società Italiana di Urologia, come sia importante palpare il testicolo. Perché? Perché è potenziale sede del tumore più frequente solido dell'età adolescenziale, e quindi è facilissimo palparlo, basta prenderlo tra il dito indice e il pollice, palparlo da sopra sotto e da lato a lato. Questo ci permette sostanzialmente di riconoscere delle nodulazioni, cioè dei noduli duri che quasi sembrano dei piccoli sassi all'interno della ghiandola, che sono facilmente identificabili e sono una spia di salute molto importante per il testicolo. E poi si può andare a palpare il pene, l'avevamo detto parlando del callo del pene. Quando una lesione, anche qui dura come se fosse un sassolino sul dorso del pene per lo più, non deve preoccuparci in senso oncologico, non per forza di cose, è una lesione che noi chiamiamo indurazio penisplastica o callo del pene, come è stato ben definito da altri, la Nicoletta compresa, ma questo fondamentalmente deve portarci a prenderci cura anche del pene. E invece la Nicoletta compresa ha sbagliato, come mi scrive prontamente Stefano, ho chiamato l'unotto il cruscotto. Stefano, mi perdoni. Fabrizio, buongiorno da Bologna. Buongiorno. Come buongiorno. Quello che chiede chiarimenti sui soldi sotto il materasso, mi devo spiegare Fabrizio, meglio. Fabrizio, benvenuto. Ben trovate. Io chiedevo questo perché ho semplicemente tutti i problemi che aveva annunciato il dottore all'inizio. Quindi e volevo sapere come potevo fare, soprattutto dal punto di vista del problema erettile. Ci sono, se posso dire, numerosissimi specialisti che si occupano a tutto tondo e molto bene di questo problema. In primo luogo è sempre utilissimo parlarne col proprio medico di medicina generale, col proprio medico di famiglia. Se, io ne ho parlato, ma sì, e non è sortito risultato. Allora guardi, la cosa migliore, diciamo che vengono fornite sempre pastiglie e medicine che hanno poi controindicazioni pesantissime. Sì. Cose che non ho mai voluto utilizzare. Allora, se posso spendere una parola a favore di quelle pastiglie, quelle hanno rivoluzionato il campo della scienza in questo ambito, non perché per la prima volta e in assoluto ci sia stata la possibilità di trattare in modo non invasivo, cioè senza iniezioni, senza protesi, una problematica che è di larghissima prevalenza. Ci sono fino al 13% degli italiani con questo problema, per cui è di amplissima prevalenza. Ma il dato importante è che quelle sono, nelle mani giuste, per le persone giuste, al momento giusto, dei farmaci assolutamente eccellenti da un punto di vista dei risultati, della sicurezza e della tollerabilità. Non bisogna averne paura, non bisogna aver paura di andare a chiederle e non bisogna avere paura di assumerle laddove si possa farlo. Andiamo a Michele da Barletta. Buongiorno Michele, benvenuto, auguri. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Allora Michele, sì. Posso proporre la domanda al direttore? Certo, grazie. Allora, io da giovanissimo ho subito un'operazione di ernia inguinale, però a detta del dottore mi è andata male senza preoccupazione perché si è atrofizzato un testicolo. Io ho avuto una vita sessuale normale, certo. Ho avuto dei figli normalmente, però al momento da 2-3 anni è come se avessi perso la sensibilità della capella, non lo so, prima bastava toccarlo e non so se devo addebitarla alla mancanza del testicolo o all'età. È proprio vero che questa trasmissione ha sdoganato qualunque tipo di non termine. C'è nessun pudore, esatto, più su niente. Siamo, no, siamo, ma adesso contenti. Io voglio dire, però, questo è quello che noi volevamo fare, sì, perché, certo, noi donne non abbiamo nessuna difficoltà, no? Esatto. A parlare del nostro corpo, della nostra salute, là in modo rigoroso, scientifico, certo, eccetera. Ed è quello che Salute Ed Uomo è quello ha voluto, che fare, ha voluto fare, anche perché l'informazione su questo settore è sempre stata carente, proprio perché si aveva un po' paura, ecco, di toccare dei temi per dare. Invece mi sembra, no, che l'abbiamo, ci sono dei medici che si occupano proprio specificatamente di questo problema, perché non farne informazione? No, è stata una cosa. Assolutamente vero. Quindi, assolutamente vero. Per rispondere al nostro amico di Barletta, mi sembra. Sì. Io direi che da un punto di vista di correlazione causale, cioè causa-effetto, la probabilità che la sua ernioplastica, che ha portato in giovane età a un'atrofia del testicolo, cosa che è descritta purtroppo ampiamente ed è possibile che capiti per mille motivi tecnici e non solo anche anatomici, abbia poco a che fare con la perdita di sensibilità della parte che chiamiamo glande del pene. Le due sono condizioni completamente indipendenti. È perfettamente plausibile che lei abbia avuto una vita sessuale felice e sia diventato genitore ancora più felice, e che quindi i suoi figli siano sani in toto. In linea di massima è più facile che con l'andare dell'età i testicoli, uno o due che siano, perdano funzione, talvolta diventino più piccoli di quanto non fossero in epoca giovanile, e la perdita di funzione è prevalentemente legata a quello che chiamiamo compartimento endocrino, cioè immagini due scatole all'interno del testicolo, una che produce spermatozoi, e lo chiameremo compartimento esocrino, una parolona. L'altra è un compartimento endocrino, quella parte del testicolo che produce testosterone. È più facile che con l'andare dell'età nell'uomo ci sia una progressiva riduzione dei valori di testosterone, perché quella scatola all'interno del testicolo stesso funzioni meno. Questo è più facile che sia successo, ma indipendentemente dalla sua ernioplastica. E adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Subito dopo ci fermiamo proprio in zona testicoli, parleremo di un problema che molti uomini, di cui hanno sentito parlare, sentivano parlare gli uomini quando facevano la visita di leva. Parleremo di varicocele, è un problema molto frequente, diffuso. Abbiamo dedicato una puntata ai genitori, quando viene diagnosticato ai loro ragazzi si preoccupano. Anche il varicocele è stato oggetto di una nostra trasmissione, ma anche per il varicocele conta se è la posizione a sinistra piuttosto e quindi che a destra. Rimanete con noi, perché questo è un altro dato molto molto importante. 800 24 00 24 tra poco. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme, puntata speciale per festeggiare i 12 mesi di Salute Uomo. In studio con noi naturalmente il professor Andrea Salogni, è pronto a rispondere alle vostre domande. 12 consigli, 12 spie da tenere sotto controllo, le metteremo naturalmente anche sulla pagina di Cuore Denari. Tra poco parleremo di varicocele, la posizione conta. Andrea, vogliamo anticipare i 12 segnali per... Beh, dare un quadro ai nostri ascoltatori di quello che troveranno, certo, e di quello che già devono tenere sotto controllo. Adesso stiamo per parlare di varicocele e di rigonfiamenti a livello scrotale, cosa particolarmente importante. Avremo il concetto della cosiddetta la notte piccola, che vuol dire durante la notte i risvegli indesiderati legati alla necessità di andare in bagno, ad urinare, che ci stanno a dire la mia vescica, ma ancor più la mia prostata, possono avere problemi. Sempre la notte piccola, abbiamo discusso durante l'anno di Salute Uomo di tutte le problematiche legate all'alto apparato respiratorio, ai turbinati a livello delle coane, cioè delle cavità nasali. Perché? Perché spesso queste portano al russamento e sono la spia di una sindrome da apnee notturne, da quelle arresti del respiro che ancora hanno un impatto sulla sessualità da un lato e sullo stato di salute cardiovascolare dall'altro. E anche dall'altro. Sul rinnovo della patente. E poi abbiamo fatto puntata, vero Deborah? Abbiamo promesso di rifarla magari, perché è molto interessante. Abbiamo parlato nel corso di quest'anno del tono dell'umore in corrispondenza di quella tragedia del volo della Germanwings, e abbiamo parlato di quanto questa deflessione del tono dell'umore, altrimenti detta nei casi più severi depressione, al maschile abbia particolare importanza, e quanto le apnee notturne spesso siano legate anche al tono dell'umore e alla qualità della memoria, agli aspetti cognitivi. E poi abbiamo detto attenzione durante la notte quando vi alzate, per perché è più facile farsi male a livello dei piedi, piuttosto che proprio perché è più facile essere un po' meno attenti. A livello del piede, altro punto, qualora mai vi venisse un dolore particolare a livello dell'alluce, non trascurate mai di andare a studiare come stia il vostro aspetto metabolico. Ricordiamoci della gotta, dell'iperuricemia. E poi abbiamo detto 50 sfumature di rosso. Abbiamo parlato di sangue nelle urine e nello sperma e di quanto questo possa essere campanello d'allarme per i problemi di calcoli, di vescica, di infezioni e anche di tumori. E da ultimo abbiamo parlato a lungo del tempo per sé, dell'importanza di prendersi del tempo pur in una vita concitata e affastellata come quella che stiamo vivendo, e di tutto questo troveremo sul nostro sito. E andiamo a Giuliano, finalmente da Napoli. Giuliano, io mi devo scusare con lei perché mi ero persa la segnalazione della sua domanda e quindi l'ho posticipata ad altri ascoltatori. Per farmi perdonare le invio un libro. Vabbè. Dai, Giuliano, mi perdoni. Vada. Giuliano, ci dica. Dunque, senta, ho 59 anni e da un paio d'anni un progressivo crollo del desiderio sessuale pur rimpicciolimento dei genitali. Ho fatto gli esami del testosterone, era basso, terapie esterne per un breve periodo hanno funzionato, poi l'ho abbandonata perché mi avevano dato delle iniezioni che non ho fatto più perché non sono servite a niente. E adesso noto che non sto facendo più controlli, ma il fenomeno si aggrava sempre di più. Va bene, però Giuliano ha preso i farmaci, non gli andavano bene, perché poi giustamente poi ciascuno fa un po' quello che vuole, no? Ecco. Questo è assolutamente vero, però c'è una libera interpretazione anche sulle terapie. Certo, però ci sono specialisti, e nell'area di Napoli ce ne sono di molto bravi, che possono certamente aiutarla sia per quanto riguarda il calo del desiderio, che per quanto riguarda la qualità dell'erezione, che per quanto riguarda lo stato di salute dei genitali esterni, che come dicevamo prima, negli uomini che non sono più dei bambini, possono fondamentalmente rimpicciolirsi, cioè si può andare incontro a un'involuzione dimensionale soprattutto dei testicoli. Andiamo a Paolo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Paolo, poi ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Sì. Paolo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e al professore. Buongiorno. Volevo fare una domanda di carattere quanto riguarda la sfera sessuale. Io ho 50 anni. Ho ancora dei rapporti buoni con mia moglie. Beh, lo credo. Il problema è che siccome lei non prende più la pillola perché ha voluto smetterla un po' su consiglio della sua ginecologa, io non riesco a sopportare, per dire, il preservativo così, usiamo la pratica del coito interruptus. Volevo appunto sapere se ci sono controindicazioni o... Non c'è una controindicazione reale, è una delle tante pratiche di tipo anticoncezionale che nel corso della storia sono state proposte e suggerite. Non è quanto di più, tra virgolette, accettato o suggerito dal punto di vista medico-scientifico, ma non esiste una controindicazione reale. È molto spesso, purtroppo, associata poi a delle difficoltà nell'attività sessuale in generale, laddove a una partner diversa non dovesse piacere. Ci sono altri aspetti importanti, soprattutto legati all'aspetto, se vogliamo, al profilo più psicologico delle cose, il timore di una genitorialità indesiderata che con un coito interrotto non sempre viene ad essere impedita, e questo rende ragione del fatto che spesso i ragazzi arrivino, persone più giovani del nostro ascoltatore, arrivino in ambulatorio dicendo: sempre utilizzato questo metodo, ora non riesco più ad avere rapporti perché io ho timore che possa portarmi ad una genitorialità che non sono pronto ancora ad affrontare. Una controindicazione scientifica, nel vero senso della parola, no, purché esista poi una espulsione del liquido seminale successivamente, non esiste. Cinzia ci chiama da Padova e le diamo il benvenuto perché ci permette di soffermarci sul tema che avevamo lanciato prima delle informazioni sul traffico e che è quella del varicocele. Buongiorno, benvenuta Cinzia, grazie. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professore. Ho mio figlio che ha 30 anni ed è stato operato 3 volte dal varicocele in 3 ospedali diversi. La prima volta all'ospedale di Camposampiero. Ma noi non vogliamo sapere gli ospedali, sì, signora. No, ecco, comunque in 3 ospedali diversi. La prima volta a 18 anni, la seconda volta a 25 e l'ultima volta l'anno scorso. E tutti dicevano che era stato fatto un intervento non perfettamente, cioè tagliato, ecco, quindi se posso darle. Allora io volevo soltanto sapere perché adesso mio figlio dovrebbe fare 4 interventi. Okay. Cioè, E quindi cosa deve fare? Si possono fare degli esami per risolvere, quindi per avere un risultato ottimale durante l'intervento? Il varico ce le torna? È normale? Queste sono un po' le domande che si leggono tra le righe della signora. Della signora. Beh, partiamo da questa idea. Il varicocele è estremamente frequente nella popolazione giovanile e ancor più frequente nella popolazione che si reca dal medico cercando figlioli laddove questi figlioli non dovessero arrivare. Il vero motivo per cui un varicocele deve essere corretto è il tentativo di preservare una buona salute a livello seminale, cioè degli spermatozoi, nel numero, nella forma e nella motilità. È molto frequente che il varicocele recidivi in funzione delle diverse tecniche chirurgiche che nel corso degli ultimi 40 anni si sono pian piano modificate, evolvendosi. La possibilità che ancora oggi esistano recidive frequenti è però assolutamente dato di fatto nella vita reale. Si può operare il varicocele 100 volte? In teoria è possibile che recidivi 100 volte, in pratica il razionale deve portare a fare un buon bilancio tra il varicocele e il danno presente a livello del testicolo, tanto più la persona è giovane, e nella produzione degli spermatozoi. Esistono tecniche diverse, molto spesso è totalmente indipendente dalla manualità dell'operatore, cioè del chirurgo, e dalla sua esperienza. È proprio una situazione anatomica. Quello cui si può arrivare è frequentemente un vaso misconosciuto, cioè non riconosciuto perché è completamente chiuso, che chiusi tutti gli altri nella correzione chirurgica si vada a riaprire nel tempo. Se posso dare un consiglio alla signora, il figliolo andrà valutato da parte di un andrologo che stimi il bilancio tra benefici di un ulteriore intervento, che è comunque un intervento chirurgico, e danno già esistente a livello della produzione del liquido seminale. Andrea, destra o sinistra? Abbiamo detto che la posizione può fare la differenza. Nel 99.9% dei casi il varicocele è espressione di un'anomalia anatomica sul versante sinistro. Ci sono dei casi rari di varicocele destro, talvolta coesistente con il varicocele sinistro. Quando compaia un varicocele di destra in condizione di assoluto benessere in una persona giovane o anche di non più 20 anni o 30 anni ma qualche anno in più, è sempre importante andare a controllare lo stato di salute del rene. Perché? Perché la comparsa di un varicocele di destra ci deve mettere, dobbiamo considerarla come campanello d'allarme, la famosa spia sul cruscotto. Ma da un punto di vista vedi pratica, vedi che lui la dice giusta, però impara dai miei certo, errori. Certo, memore di quanto prima suggeritoci, ma da un punto di vista pratico la presenza di una lesione a livello renale anche tumorale purtroppo deve essere esclusa facendo una semplice non invasiva ecografia dell'addome. Allora, intanto ringraziamo Barbara che ci ha scritto un messaggio su WhatsApp per farci complimenti. E questi complimenti di oggi, spesso, e voi siete molto carini, fate i complimenti a Deborah e a me per le trasmissioni, ma che ce le faccia Barbara per questo appuntamento su Salute Uomo vuol dire tante cose. È molto, no? Bello, è molto bello. Ecco, fatti da una donna valgono in questo caso doppi. Allora, sulle pagine di Salute Uomo trovate tutte le indicazioni, come l'editoriale di Andrea Salogna, gli aggiornamenti, e approfittiamo per ringraziare lo staff che collabora con le news che arrivano in tempo reale dai migliori e più aggiornati istituti di ricerca del mondo. Sì. Questo lo sottolineiamo perché noi vogliamo stare sull'attualità, a volte l'anticipiamo, ma va bene così. E allora vi salutiamo, Andrea, grazie. Buon per primo questa... anno ancora, Salute Uomo. E io invece do a tutti gli ascoltatori con Cuore Denari l'appuntamento a lunedì. Buon weekend. Arrivederci.